Ma se il nostro gioir dal ciel deriva, come dal ciel ciò che quaggiù incontra, giusto e ben che devoti gli offram incensi e voti, dunque al tempio ciascun rivolga i passi a pregar lui nella cui destra il mondo, che lungamente il nostro ben conservi. Thank you. sena letta l'ombra Orfeo di quei faggi orchi infuocati raggi e voda accesa etta. Quelle vostre sponde possiam cieli vari modi, ciascun sua voce snodi al mormorio dell'onde. Questo prato avvolò ogni selvaggio nume, soventa per costume di fargli entro soggiorno. Dei pastori s'udita lor dolente rimembra dolcemente suoi sventurati amori. Schiera sempre fiorita con le candide dita sul viso accoglie rose. Dopo il buon sei più contento, dopo sol per te dell'Euridice. Mira, te mira, Orfeo, che d'ogni intorno ride il bosco e ride il prato. Tu Cervo, hai fatuem die crudelle, hai stelle ingiuriose, hai ciel avaro. Alla mar, al novella, rassembra l'infelice un muto sasso, che per troppo dolor non può dallersi. Ai, enna premuntor di tigre odorsa, chi non sentisse del tuo mal pietade, privo d'ogni tuo ben misero amare. Per mai più non tornare, ed io rimango. No, no, che se i versi alcuna cosa ponno, n'andrò sicuro a più profondi abissi. Tenerito il potrà rotti a riveder le stelle. Oh, se ciò negherà miei mio destino, rimarrò teco in compagnia. Thank you.